Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Da anni l'Italia, in particolare l'Enea, è impegnata nello sviluppo di una tecnologia chiamata solare termodinamico. Una storia cominciata con il progetto Archimede, che in Sicilia, presso la centrale elettrica di Priolo Gargallo, ha portato all'avviamento nel 2010 del primo impianto capace di produrre energia elettrica concentrando, grazie a file di specchi parabolici, la luce del sole su un lungo tubo contenente sali fusi. A differenza del fotovoltaico, il solare termodinamico permette di accumulare calore ad alta temperatura da utilizzare per produrre energia elettrica non solo quando splende il sole, ma anche durante i passaggi nuvolosi e perfino di notte. Dipende da quanto sale fuso o altro liquido bollente, di solito si tratta di olio, sia in grado di accumulare. Ebbene, la notizia è che sono stati da poco inaugurati 4 nuovi piccoli impianti solari termodinamici, uno in Italia e 3 in altri paesi medio orientali. Siamo nell'ambito del progetto STS Med, e questo aggettivo che ho usato, piccoli, è da considerarsi in questo caso tutt'altro che un diminutivo. Ne parliamo con Alberto Giaconia, che è ricercatore del Centro Ricerche Enea della Casaccia, responsabile per i progetti europei sul solare termodinamico. Buonasera Giaconia. Salve, buonasera Meli. Allora, intanto 4 impianti, diciamo subito dove? Allora, sono 4 impianti realizzati in diversi paesi del Mediterraneo, in particolare Cipro, a Nicosia, Giordania, presso sul tetto di un edificio, di una scuola, ad Erbit, in Egitto, poco a nord di Al Cairo, a Sechem, vicino a un ospedale, e in Italia, a Palermo, all'interno del campus universitario. Perfetto. Ecco, si tratta di 4 impianti dove la tecnologia di concentrazione dell'energia solare è la stessa, ma dove l'uso del calore è molto diversificato. Quindi, intanto, usate olio bollente in questi casi, olio diatermico, si chiama così? Sì, esatto. Utilizziamo olio diatermico in tutti e 4 gli impianti ad bassissimo impatto ambientale, quindi compatibili con... E ci sono tanti specchi che si orientano per concentrare su un tubo dove passa questo olio diatermico il calore del sole, giusto? Esatto. Usiamo concentratori lineari, tipo parabolici lineari o Fresnel lineari, per concentrare l'energia solare e generare calore ad alta temperatura, che può essere stoccato in maniera differente utilizzando sali fusi, olio, acqua pressurizzata, oppure direttamente inviata a diverse tipologie di utenze, quali cicli organici Rankin, che sono dei sistemi per produrre energia elettrica a bassa temperatura, esatto, oppure cogenerare energia termica per diversi utilizzi, tra cui in particolare quello del condizionamento di edifici, strutture, mediante sistemi di assorbimento. E voi provate un po' di tecnologie diversificate su ognuno di questi impianti, e comunque c'è un forte, diciamo, utilizzo del calore per produrre freddo in quei paesi dove il problema è più quello del condizionamento. Senta, veniamo alla questione delle dimensioni. Dopo anni durante i quali si è puntato su impianti di grandi dimensioni, 5, 50 megawatt, pare che in questo momento si stia guardando invece alla piccola scala. Come mai? Esatto, gli impianti che abbiamo realizzato sono dei piccoli impianti dimostrativi, complessivamente siamo sui 500 kW termici. Internazionalmente il CFP o il solare termodinamico è considerato una tecnologia per grossissimi impianti, parliamo dai 50 alle diverse centinaia di megawatt. Sono enormi impianti che richiedono comunque elevatissime superfici, e quindi ampi deserti, superfici comunque pianeggianti, che hanno determinate peculiarità che in molti paesi, ad esempio del sud Europa, non esistono. E comunque anche laddove esistono queste caratteristiche, salvo qualche caso, normalmente i deserti sono anche disabitati, e quindi avete detto meglio puntare su qualcosa di più piccolo, e questa è la ragione principale, se no si sa dove farli. Esatto, puntare su una generazione più distribuita, impianti dell'ordine del megawatt, che quindi hanno un'estensione che è compatibile con le caratteristiche del nostro territorio. Uno o due campi di calcio, mi diceva prima. Ecco, mi sembra che ci sia un altro cambio di strategia rispetto al passato, cioè si punta un po' meno sull'accumulo. Prima si diceva accumuliamo grandissimi quantitativi di questo liquido bollente, così può andare avanti una settimana senza il sole. Oggi mi pare che si punti un po' di più sull'accostamento con altre fonti di energia invece. Esatto, sappiamo che il carico è variabile. Cioè la domanda di energia. Sì, la domanda di energia è variabile, così come è variabile la disponibilità dell'energia solare. un'esatta, un'opportuna combinazione del sistema di accumulo termico, che comunque già esiste, è necessario per il funzionamento, certo, e per prolungare il funzionamento dell'impianto, per esempio durante le ore notturne, combinandolo con altre fonti energetiche disponibili, siano esse fossili o rinnovabili, di natura termica, permettono, appunto si parla di ibridizzazione, di trovare la migliore combinazione per massimizzare l'utilizzo delle fonti solari. Con questa logica è anche abbastanza facile, come dire, attaccarsi con un piccolo, tra virgolette, impianto solare a un impianto che produce energia già esistente, aiutarlo con l'energia solare senza pretendere di sostituire tutto. E questo, almeno nel breve periodo, nel medio breve, può essere veramente una strategia. Sicuramente per il breve termine questa è la soluzione che permette di integrare l'attuale sistema energetico in un sistema energetico innovativo. Grazie allora. Grazie Giaconia, buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi. E anche per questa sera è tutto, appuntamento a domani.